24 mattino di Alessandro Milan. 7:21 minuti, riparte una settimana di 24 mattino. Buongiorno, eccoci qua cari ascoltatori, in diretta fino alle 9, 24 mattino e tradio24.it. Oggi nel nostro sondaggio alle 8:30 approfondiremo questo tema, i numerosi comuni, le province, le regioni che vogliono cambiare, spostarsi geograficamente in Italia, comuni che vogliono passare da una regione all'altra, così come le province, alcune zone dell'Italia che vogliono costituirsi in regioni autonome, creare nuove regioni come il Salento, come Salerno. Condividete queste richieste, le capite? Ne parleremo alle 8:30, questo è il tema del nostro sondaggio, radio24.it per votare. E da cosa partiamo? Come al solito, dai giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 17 gennaio, il Sole 24 Ore apre sul piano anti-evasione sulla casa, questo è il titolo di apertura, molto interessanti le novità in arrivo col federalismo municipale che questa settimana è in discussione alla Camera. E dopodiché, se guardate tutti gli altri giornali, ci risiamo, cari italiani. Berlusconi non andrà dai PM, il Corriere della Sera. Per Repubblica, Berlusconi show, mai pagato donne. Per La Stampa, Berlusconi contrattacca in TV. Il Giornale, Berlusconi è fidanzato. L'Unità, ci sono una serie di ragazze che sono diventate famose in questi giorni, sono tornate in auge, una sfilza di ragazze con i loro sorrisi, con anche i loro décolleté generosi. E il titolo, sono fidanzato e anche orfano. Questo il titolo dell'Unità per il quotidiano nazionale. Silvio, shock, ho una relazione stabile, mi costringono a rivelarlo. E il Messaggero, Berlusconi, una persecuzione. Insomma, ci risiamo per oggi e per giorni e giorni. Ancora terrà banco il rapporto con le donne di Silvio Berlusconi. Io voglio partire da una segnalazione. Quale? La vicenda Battisti oggi trova alcuni spunti sui giornali. La vicenda Battisti, al quale è stata negata l'estradizione dal Brasile. L'assessore vieta le biblioteche ai libri degli autori pro Battisti. La trovo sul Corriere della Sera a pagina 19, ma anche un'intera pagina sul Giornale. Via dalle biblioteche i libri scritti dagli amici di Battisti è un'iniziativa dell'assessore alla cultura della provincia di Venezia, Raffaele Speranzon, che sul Corriere della Sera viene definito curriculum fronte della gioventù AN, assessore appunto alla cultura della provincia di Venezia, consigliere anche municipale a Venezia, ha deciso e ha detto andrebbero tolte dalle biblioteche tutti i libri firmati da quegli autori italiani che nel 2007 firmarono un documento di sostegno al terrorista Cesare Battisti. Tra questi autori non c'è Roberto Saviano, che prima firmò ma poi fece togliere un paio d'anni dopo la sua firma. Ci sono invece, non so, Tiziano Scarpa, Massimo Carlotto, che al Corriere della Sera replicano. Tiziano Scarpa dice bisogna andare a vedere perché gente dall'indole mite firmò quell'appello. Oppure, più ironico, Massimo Carlotto, che dice l'assessore sappia che ho firmato anche per i Rom, cosa per lui ancora più grave, cosa mi accadrà ora? Effettivamente l'iniziativa anche sul Giornale è bollata in maniera un po' critica. Il rischio di rispondere a una scemenza con un'altra scemenza è grande, scrive Marino Smiderle sul Giornale. I precedenti di chi voleva bruciare i libri in piazza non è molto incoraggiante. Ma certo, questa polemica riporta al centro la questione Battisti, lo fa anche oggi La Stampa, per la verità, con un articolo ben più interessante, uno scoop, perché parla per la prima volta, ed è un'intervista in esclusiva, Tarso Genro, che è l'ex ministro della giustizia del presidente Lula, colui che di fatto si è più battuto, si è più speso per definire Battisti un rifugiato politico. Parla alla Stampa, un'intervista concessa a Paolo Manzo, troppe ombre nel vostro processo a Battisti, torna questo tema. L'ex ministro di Lula, da Roma parole volgari. Intanto la premessa, non credo che i rapporti con l'Italia possano essere incrinati dalla vicenda che riguarda una persona. E poi dice l'ex ministro, che ora è governatore dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, si è taciuto qua sulla totale fragilità delle prove nel processo italiano contro Battisti. Torna insomma questa, questo leitmotiv francamente un po' inaccettabile, però l'ex ministro punta su questo. Non so se si facesse oggi il processo se Battisti sarebbe considerato non colpevole. Ciò che so è che nelle condizioni in cui il processo fu fatto all'epoca, la sua condanna è impregnata di dubbi e in qualsiasi sistema giuridico democratico il dubbio sulle prove è un dubbio che incide sullo stesso crimine. In dubbio pro reo, insomma. Così parlò l'ex ministro della giustizia, Tarso Genro dal Brasile, in un'intervista alla Stampa. Da Roma, parole volgari, l'accusa anche a volgarità con cui hanno reagito alcuni ministri del governo italiano nel tranciare giudizi sui giuristi brasiliani sul nostro governo, tutto questo può avere inacidito eccessivamente la situazione. Insomma, parla per la prima volta e spiega c'erano anche dei dubbi nel processo fatto a Battisti all'epoca, per questo l'abbiamo considerato un rifugiato politico. Battisti, che mi risulta comunque rimane per il momento ancora in carcere. In ogni caso ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi, eh sì, ripartiamo dalla vagonata di pagine che trovate sui giornali italiani su che cosa? Su Berlusconi e la sua fidanzata. Chi sarà? Chi sarà mai la sua fidanzata? Cherchez la femme. In primo piano. E allora l'anticipazione c'è stata nel weekend e oggi continua, le paginate sulla vicenda Silvio Berlusconi Ruby e l'inchiesta di Milano, la procura di Milano che lo ha indagato da 20 dicembre credo per concussione e sfruttamento della prostituzione minorile. Ieri Berlusconi è apparso in un video messaggio. Ha detto tante cose, le accuse, giustizia politica, ma diciamo la cosa più importante sulla quale punta molti giornali è questa: ho una relazione stabile con una persona, tanto che i giornali oggi si scatenano sul toto fidanzata. Fabrizio Roncone a pagina 2 del Corriere della Sera, Minetti, Pascale, Ravot, ora è il toto fidanzata. Fabrizio Roncone le va un po' a sentire. Francesca Pascale, 25 anni, consigliere provinciale del PDL in Campania, risponde così: io? Magari fossi io la fortunata, la prescelta dal nostro grande e bellissimo cavaliere. E invece giuro, no, no e ancora no. Purtroppo non sono io a potermi vantare di stare ufficialmente al fianco di un simile personaggio. E poi Nicole Minetti, molti dicono sia lei, per la verità è anche indagata in questa vicenda. E Nicole Minetti oggi è consigliere regionale del PDL in Lombardia, è colei che si presentò quella serata in questura proprio a ricevere Ruby, che dopo che fu liberata, dopo che fu fermata dalla questura di Milano, da vicenda da cui è nato un po' tutto. La Santanchè, sentita da Fabrizio Roncone, dice: ma certo che io so chi è, l'ho incontrata a cene, a feste, ma non posso dire nulla. Allora si va da Mariano Apicella, uno che anche lui alle feste c'è. Zitto Mariano, questa è la regola che mi sono imposto. Zitto Mariano, tu ti devi stare zitto e muto e buono buono. Shh, zitto, zitto. E niente. E poi ci sono le voci più disparate, addirittura si era sparsa la voce nei giorni scorsi che fosse una quarantenne di sinistra. No, di sinistra non è possibile, questo Berlusconi l'ha già smentito dicendo: non ho mai avuto donne di sinistra. Anche sul quotidiano nazionale a pagina 3 Daniela Santanchè intervistata: sì, ha una fidanzata ma non la butterà mai in pasto ai media. Secondo l'Unità a pagina 4 potrebbe essere addirittura, ricordate la Croce Rossina, quella famosa del 2 giugno che sfilò e Berlusconi fece quell'espressione "ah però", no? Sembrava dire così, con l'espressione del volto accompagnata con un gesto eloquente delle mani. La Croce Rossina Barbara La Muraglia, 47 anni ma con la fede al dito, può essere lei? L'Unità lancia anche questa idea. Sta di fatto che questa vicenda davvero esonda dai giornali, perché la vicenda, da una vicenda processuale con profili penali, rischia di diventare ovviamente anche una vicenda politica. Tutto è contenuto nel panico che il secolo XIX definisce così. Chiamarlo panico tra le file berlusconiane è poco. Perché? Perché oggi vengono ufficialmente aperte le 300 pagine inviate alla Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera, nelle quali ci sono tutti gli elementi, pare anche dei brogliacci, delle intercettazioni a corredo della richiesta della Procura di Milano. Tra l'altro vi faccio una sfida, una scommessa: quanti giorni ci vorranno perché queste intercettazioni con tutti i particolari finiranno sui giornali? Certamente credo che già domani ci sarà qualcosa, visto che oggi vengono aperte queste carte, anche se per la verità La Stampa pagina 5 racconta il dossier in mano ai parlamentari verrà consegnato oggi al presidente della giunta per le autorizzazioni Castagnetti, che lo depositerà, poi farà 12 copie, verranno poi presentate una copia per ogni componente della giunta, nessuno potrà farne copia, potranno documentarsi e leggerle ma non potranno portarle all'esterno dei locali della giunta. Insomma, il timore è quello di una fuga di notizie, che ci sarà certamente e che potrà portare poi alla pubblicazione di questi atti. Tra l'altro Ugo Magri è il più esplicito in prima pagina della Stampa. Ugo Magri è il notista politico che segue molto da vicino ciò che avviene a Palazzo Chigi. Ebbene, il titolo dell'editoriale è La battaglia finale. Chi ha dato uno sguardo a queste carte non trova parole per raccontare. Lo stesso premier, scrive Ugo Magri, ha trascorso l'altra notte sfogliando le carte e ne è rimasto profondamente sconvolto per il linguaggio crudo da fare arrossire qualche scaricatore di porto con cui le ragazze intercettate descrivono i festini di Arcore e per i giudizi spietati, gonfi di sprezzo che mandano in briciole il suo ego, che trasformano il cavaliere umanamente in un mostro. Racconta Ugo Magri, a questo punto prima della difesa legale per Berlusconi viene quella urgente, urlata, disperata della propria dignità di politico, di imprenditore, di padre e di nonno. Da domani sapremo quali orrendi segreti stanno sul plico. Eccolo qui, da domani. Perché sicuramente usciranno. Su questo plico, su cui ironia del destino metterà la sua firma Fini da presidente della Camera. E racconta Ugo Magri, a questo punto spunta l'ipotesi di missioni addirittura. Sottovoce, mai che abbia pronunciato la parola fatale dimissione, eppure chi gli circola intorno giura che sta bene al centro dei suoi pensieri, aleggia come uno spettro nella villa di Arcore. Fosse Berlusconi accusato di violazione dell'articolo 2550 del codice civile, all'estero direbbero che è una storia italiana, ma in questo caso si parla un linguaggio universale: sesso con una prostituta minorenne, lo capiscono anche in Cina. Tentare difese tecniche o andare in TV è semplicemente ridicolo. Questo è il virgolettato attribuito a un ministro tra i massimi, che naturalmente non vuole essere nominato da Ugo Magri. Sta di fatto che sul Corriere della Sera ancora ci sono già anticipazioni di questa vicenda. Luigi Ferrarella, che è colui che tra l'altro l'ha anticipata con uno scoop qualche giorno fa sul Corriere.it, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella raccontano le istruzioni alle ragazze di Nicole Minetti prima della festa. Ti devo briffare, ne vedrai di ogni. Ti devo briffare, con questo termine riferito al briefing, no? Cioè comunicare sommariamente delle richieste prima che tu vada in una certa situazione. Ti devo briffare, ne vedrai di ogni. Questo appare dalle intercettazioni telefoniche, il compito di Nicole Minetti, secondo Ferrarella e Guastella, vale a dire quello di relazionare appunto alle donne che dovevano andare a queste feste. Nel settembre 2010 Minetti invita una sua amica riminese, studentessa universitaria. Non è una felice idea. La studentessa uscirà assai infastidita dalla serata con Berlusconi e il gruppo di altre ragazze dalle richieste del premier, dalle scene quale assiste. Nei giorni successivi se ne lamenterà al telefono con le amiche. E poi ancora, una reazione psicologica identica a quella della studentessa amica della Minetti sarebbe stata di una danzatrice del ventre, marocchina come Ruby, che ha riferito svolgimenti imbarazzanti al punto da dirsene letteralmente disgustata, proprio negli stessi termini già presi dagli investigatori attraverso i racconti intercettati di altre ragazze in altri periodi. E insomma, vogliamo continuare? Secondo il Messaggero, ecco come il premier seppe che Ruby era minorenne. Ci fu una lite tra Ruby e Lele Mora, l'impresario Lele Mora, nella quale Ruby, che non si era presentata a un casting organizzato da Lele Mora, disse a Lele Mora: io ho 17 anni ma voglio fare quello che voglio. A quel punto Lele Mora scopre che Ruby non ha 24 anni come lei stessa dice, si è arrabbiato, mi ha cacciato via dall'agenzia e poco dopo arriva la telefonata di Berlusconi. Mi ha detto di non cercarlo più, che con le minorenni aveva avuto dei problemi in passato e non voleva più vedermi. È stato duro ma garbato, solo che, secondo gli inquirenti, dopo questa telefonata, Rubi, quindi dopo questa telefonata nella quale Berlusconi avrebbe scoperto che era minorenne, Rubi, secondo il monitoraggio del suo cellulare, si sarebbe ripresentata altre volte invitata ad Arcore. E insomma, oggi Giuseppe D'Avanzo e Piero Colaprico insistono e dicono, l'hanno detto anche ieri, che il carcere, addirittura il carcere, è un qualcosa di non escluso per Berlusconi, mentre in prima pagina del giornale Alessandro Sallusti, il suo direttore, sotto il titolo Berlusconi è fidanzato, scrive: la notizia che Silvio Berlusconi è fidanzato, svelare la storia personale con la dama misteriosa, era necessario per rimettere un po' d'ordine a una vicenda che sta assumendo contorni surreali. E poi dice, appunto, si è augurato il carcere Giuseppe D'Avanzo in un articolo su Repubblica. Due giorni o una settimana, ma in cella finirà, ha scritto D'Avanzo. Una speranza condivisa dal suo editore Carlo De Benedetti, che non vede l'ora di pareggiare il conto col nemico di sempre, Silvio Berlusconi. L'aria che si respira è questa. Cari lettori, cari italiani, cari ascoltatori, pagine e pagine sulla vicenda di Berlusconi. E tra l'altro, ripeto, oggi arriveranno le carte, verranno aperte le carte con tanto di plico, con tutti i brogliacci e le intercettazioni, e quindi da domani certamente leggeremo tutto. C'è ancora molto sui giornali. Di che cosa? Beh, della vicenda del voto Mirafiori. Voglio segnalare, ha vinto il sì, anche se al 50% e rotti, adesso non ricordo bene la percentuale. In ogni caso ci sono molti commenti, molto dure. Pierluigi Battista in prima pagina del Corriere, prendo spunto da quel titolo fatto dal Fatto Quotidiano, Uomini e No, era il titolo di ieri. In democrazia, scrive Battista, i voti si contano e non si pesano, ma il voto degli operai che hanno scelto il sì a Mirafiori viene trattato come se avesse un peso etico inferiore. È un'ingiustizia. Chi vince è squalificato moralmente come un uomo piccolo piccolo che si piega ai ricatti in nome del Tengo Famiglia. Eccolo qui, il Fatto Quotidiano titola Uomini e No. Ricalca uno dei più discutibili titoli della letteratura italiana, lo scelse Elio Vittorini, si riferiva alla resistenza, da una parte gli uomini, dall'altra chi veniva privato perfino di una consistenza umana. L'operaio di Mirafiori, chiede Battista, che ha votato sì, è forse un uomo di qualità inferiore? Chi si oppone è moralmente superiore a chi consente? È affiorata una pessima retorica ideologica in questa drammatica vicenda della Fiat. L'umanità di Mirafiori tagliata in due, da una parte quelli che hanno la schiena dritta, quelli che incarnano i valori della dignità, del coraggio, dell'etica, del rifiuto ai soprusi, dall'altra quello di chi cede, chi si piega, si inchina, ingoia passiva e servile il ricatto dei potenti. Eugenio Scalfari ha evocato addirittura le anime morte di Gogol. Sull'unità Concita De Gregori è scivolata nella volgarità, suggerendo che mercimonio per mercimonio sarebbe stato preferibile che le figlie degli operai ricattati si fossero acconciate a qualche bunga bunga per spillare a qualche quattrino alla corte del sultano. Evidente, l'intenzione del direttore dell'unità era sarcastica, ma a volte il sarcasmo riesce male e il sarcasmo mal riuscito è controproducente, oltre che deprimente. Questo Pierluigi Battista, il commento Uomini e No, quel disprezzo verso chi ha deciso per il sì, è uno dei tanti temi, dei tanti editoriali che trovate ancora sulla vicenda della Fiat. Il traffico, e poi rientriamo. In primo piano. Piano anti-evasione sulla casa, questo, come detto, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore del lunedì. Sono gli effetti del federalismo municipale che va al voto in discussione alla Camera. Domani si riunisce l'ufficio della commissione bicamerale e entro venerdì si potrebbe già votare il provvedimento per mandarlo poi al via libera del governo. Ci si concentra soprattutto sull'evasione dentro casa. A pagina 3. Saverio Fossati e Gianni Trovati raccontano che cosa? Per esempio la lotta agli affitti in nero, la lotta ai finti comodati, cioè parte la caccia ai redditi non dichiarati con il federalismo fiscale. Sugli affitti in nero soprattutto ci si concentra, la partita più importante, raccontano Saverio Fossati e Gianni Trovati, perché il dato è preoccupante, 500.000 di locazioni in nero. 500.000 di locazioni. Questo secondo i dati dell'Istat. Infatti ci sono circa 17 milioni di famiglie che vivono in case di proprietà, 4,7 famiglie in affitto di milioni. Se a quest'ultima cifra, i 4.700.000 famiglie in affitto, se a quest'ultima cifra sottraiamo le locazioni indicate nelle dichiarazioni dei redditi dalle persone fisiche, vale a dire 2,7 milioni, e sottraiamo quelle di edilizia pubblica, 1 milione, quelle locate dalle società, 500.000, resta appunto un 500.000, mezzo milione di famiglie che abitano in casa da altri ma non hanno un contratto. Dunque, in nero, se si considera che l'affitto medio in Italia è di 535 euro al mese, si parla di 3,2 miliardi di euro che sfuggono ogni anno al prelievo dell'IRPEF. Ecco che il federalismo fiscale si concentrerà soprattutto su questo, ma trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore. A proposito di evasione fiscale, e noi abbiamo parlato la scorsa settimana della famosa lista Falciani, di questo ex dipendente che ha sottratto alla banca svizzera e poi venduto ai servizi segreti di mezza Europa i correntisti, l'elenco dei correntisti della sua filiale elvetica, e ora le procure in Italia indagano. Ebbene, ce n'è un altro, pare che abbia fatto proseliti questo Falciani, perché l'ex banchiere svizzero Rudolf Elmer, e si trova una pagina su Repubblica e sull'Unità, ha deciso di dare a chi? A Mr. Wikileaks, a Julian Assange, l'elenco di 2000 nomi, tra cui uomini politici, personaggi del jet set di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Svizzera. L'Italia dovrebbe essere salva per questa volta. 2000 nomi di persone che tenevano soldi nella filiale delle isole Cayman di questa banca, nella banca dove lui lavorava. Questo l'ex banchiere Rudolf Elmer, pare che oggi Wikileaks pubblicherà un intero database con i nomi di 2000 presunti evasori fiscali. Dico presunti, guardate che prudenza, uno che teneva i soldi alle Cayman, presunti evasori fiscali, oggi su Wikileaks. Oh, per le segnalazioni vi voglio segnalare, sempre dal Sole 24 Ore, ma è anche molto ampliata e analizzata con due pagine La Stampa, viene oggi presentata alla Bocconi di Milano un libro bianco delle proposte a esponenti del governo e dell'opposizione di chi? Di migliaia di donne che sono state intervistate e hanno elaborato 15 proposte, gli spunti concreti al mondo politico per non sottovalutare l'apporto delle donne. C'è anche in prima pagina del Sole un editoriale di Monica D'Ascenzio dal titolo Il manifesto in 15 passi per il lavoro femminile. Che cosa chiedono alla politica le donne per venire incontro maggiormente alle loro esigenze in questo libro bianco che verrà presentato oggi? Intanto detrazioni fiscali che per le aziende che assumono le donne, congedo di paternità obbligatorio, servizio scolastico pubblico anche durante le vacanze, maggiori detrazioni per le famiglie numerose. Per esempio, in questa ricerca, qual è il principale problema delle donne che lavorano nel conciliare la vita professionale ai figli? Le donne hanno risposto così: per il 56% il problema maggiore è la difficoltà di organizzazione legata alla cura dei figli. Quindi la mancanza di sostegno da parte del datore di lavoro, il 41%. E poi ancora questa domanda: in Italia quali di questi temi sentite prioritari? Il 69% ha risposto le violenze nei confronti delle donne, sia sessuale che fisica che psicologica. Per il 62% gli aiuti per la cura e l'assistenza di bambini e anziani. Per il 50% facilitare l'adozione. Per il 47% l'uguaglianza degli stipendi tra uomini e donne, e ancora via così. Lo trovate a pagina 14 del Sole oppure a pagina 12 e 13 della Stampa. Arriva il libro bianco delle donne italiane che vogliono, questo libro vuole rispondere a questa domanda: cosa può fare in concreto la politica per migliorare la condizione femminile? C'è un'ultima segnalazione, devo chiudere credo, a dire sempre dal Sole 24 Ore, pagina 5, sapete, è una ricerca del Sole 24 Ore su dati del Ministero sul prezzo dei beni, dove costa la spesa più cara in Italia? È stato preso un paniere per acquistare lo stesso paniere in tutta Italia, elaborazione del Sole 24 Ore, la trovate a pagina 5, a Rimini, una media di 4.151 euro. davanti a Ferrara, Aosta, Treviso, Verona. Qui la spesa più cara per acquistare gli stessi 20 beni costa di più. Invece dove costa meno? Potenza. A Rimini 4.151 euro in media, a Potenza 2.926. Ma trovate tutta la classifica sul Sole a pagina 5. Ci fermiamo per il GR. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui alle 8:20 minuti. Voglio salutare il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini. Cascini, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a lei e ascoltatori. Senta, la vicenda, basta leggere i giornali, ormai già esonda dai giornali. Berlusconi è tornato a parlare, non è la prima volta ovviamente, di persecuzione giudiziaria per questa vicenda del caso Ruby. E purtroppo siamo costretti ancora una volta ad assistere ad un'aggressione mediatica nei confronti dei magistrati e a ribadire che, nonostante la delicatezza del caso, le uniche regole applicabili sono quelle che valgono per tutti i cittadini: difendersi nel processo, portare ai giudici le proprie prove della propria innocenza, dimostrare l'estraneità a questi fatti che vengono contestati e non leggere tutto in chiave di complotto a fini politici, perché questo non aiuta né la democrazia né la comprensione di quanto è accaduto. Però, dottor Cascini, chi parla di giustizia orologeria magari si fa un piccolo sospetto, dice: ma come, proprio il giorno in cui il legittimo impedimento è stato parzialmente bocciato, la Consulta e questa è una storia, il giorno dopo ecco che spunta quest'altra notizia. Cioè, uno a pensare anche, a voler pensare bene, però il sospetto arriva. Ma il problema è questo, che le iniziative giudiziarie vengono assunte secondo le scadenze proprie delle regole del processo e purtroppo la vita politica ci offre ogni settimana un'occasione rispetto alla quale noi possiamo rilevare la strana coincidenza. Se fosse stato un mese fa, sarebbe stato immediatamente prima del legittimo impedimento, o prima del voto di fiducia, o prima del voto sulla manovra economica. Purtroppo la politica ogni settimana ha un appuntamento importante, le regole del processo invece impongono di rispettare i tempi del processo. Per esempio, la Procura di Milano ha deciso di procedere con il giudizio immediato, che impone che la richiesta sia presentata entro 3 mesi dall'avvio delle indagini. Quindi quei tempi sono stabiliti dalla legge. Gli altri, quelli di opportunità politica, non sono mai regolabili perché c'è sempre un'emergenza politica. Senta, lei da magistrato ci spieghi tecnicamente, senza entrare nel caso che nessuno ovviamente conosce, tantomeno noi, giudizio immediato, in genere si dice la procura chiede un giudizio immediato quando vuol dire che ha in mano, pensa di avere in mano delle prove evidenti di colpevolezza. È così dal punto di vista tecnico? Presupposti sono questi: l'interrogatorio dell'indagato oppure l'invito a presentarsi al quale non segue la presentazione e la prova evidente. L'evidenza della prova deve essere valutata da un giudice che nel caso ritenga fondata la richiesta della procura emette un decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale. Quindi dal punto di vista tecnico la procura possiamo presumere che pensi di avere in mano una prova evidente, insomma, del reato, del reato contestato. Questo certo dal punto di vista dell'accusa. Senta, le chiedo, ma lei esclude davvero che esistano giudici in Italia o magistrati in Italia che vogliano, come dicono politicamente quelli vicini a Berlusconi, abbattere giudiziariamente Berlusconi, che non viene abbattuto politicamente? Guardi, questa è la più grande favola che sia stata mai raccontata. Non esiste una organizzazione di magistrati che ha questa finalità, e laddove esistessero singoli magistrati con questa finalità, noi saremmo i primi a denunciare questi comportamenti come contrari ai doveri propri del magistrato. La magistratura è un potere diffuso fatto da 8.000 persone e che hanno come unico punto di riferimento quello dell'applicazione della legge. Il teorema della persecuzione giudiziaria a fini politici è una pura invenzione da parte di un raggruppamento politico. Basta vedere il comportamento della magistratura in questi anni, anche nelle inchieste che hanno riguardato l'onorevole Berlusconi, ma bisogna ricordare che le inchieste della magistratura hanno riguardato esponenti politici di tutti gli schieramenti, per avere chiaro quanto questa tesi sia infondata. Se ci fosse stato un complotto, non si vede perché Berlusconi in molte occasioni sia stato assolto dai giudici. Sarebbe una strana organizzazione che poi non riesce a portare a compimento il suo progetto. In realtà, come per tutti i cittadini italiani, Berlusconi è soggetto al controllo di legalità da parte della magistratura. Se viene avviata un'indagine, questa indagine deve avere il suo sbocco, che può essere l'archiviazione o il processo. È stata la drammatizzazione che di queste vicende Berlusconi ha scelto di fare a portarci a questa situazione. Le indagini nei confronti di Berlusconi sono iniziate prima che Berlusconi entrasse in politica, e Berlusconi ha sempre scelto di spostare sul piano politico questioni che erano squisitamente giudiziarie. Se egli avesse affidato ai suoi legali la sua difesa nei processi, probabilmente noi non saremmo a questo punto. Le chiedo, non si capisce ancora se Berlusconi verrà interrogato oppure no. Le chiedo anche questo dal punto di vista tecnico: che cosa può opporre Berlusconi, essendo presidente del Consiglio onorevole, a una richiesta di interrogatorio da parte della Procura di Milano? Non entro nel merito, mi sembra che l'invito fatto dalla Procura di Milano consenta all'onorevole Berlusconi di presentarsi in qualunque momento in Procura per rendere l'interrogatorio. Quindi, nonostante gli impegni della Presidenza del Consiglio, immagino che non ci sia un'impossibilità a presentarsi. Ma può valere un legittimo impedimento? Non quello per legge, ma un legittimo impedimento che potrei avere anch'io, qualunque persona normale? Sì, ma la Procura ha fatto un invito in cui ha dato la possibilità di presentarsi per tre giorni dalle 8 alle 22, quindi mi sembra impossibile non trovare uno spazio. Comunque in questo rito è una scelta dell'indagato quella di essere interrogato o meno. Io mi auguro, come cittadino, che il capo del governo abbia una sua versione dei fatti credibile da offrire alla magistratura per spiegare quanto è avvenuto, perché è ovvio che ogni ombra sul capo del primo ministro non fa bene al paese, però queste sono scelte che aspettano. Si vede l'autonomia iniziativa dei legali e della persona sottoposta a indagine. Un'ultima se non domanda. Si presenta, il processo può essere svolto lo stesso. Un'ultima domanda, dottor Cascini: domani, se leggessimo le intercettazioni o stralci delle intercettazioni nelle carte che oggi verranno ufficialmente aperte alla Giunta per l'autorizzazione alla Camera, lei come, se le dovessimo leggere sui giornali, lei cosa ne penserebbe? Guardi, io non sono mai stato un amante della diffusione di materiali investigativi. In questo caso temo sia inevitabile e mi auguro che la Procura di Milano abbia selezionato con accuratezza il materiale da trasmettere alla Camera, trasmettendo esclusivamente le cose rilevanti per le indagini. E possiamo tutti augurarci che pezzi di vita privata di persone non coinvolte nelle indagini non vengano diffusi. Ho paura che però la distribuzione di questo materiale a tutti i parlamentari della Giunta dell'autorizzazione a procedere renderà impossibile evitare la discussione. Temo anch'io. La ringrazio intanto. Prego. Giuseppe Cascini, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, il Sindacato dei Magistrati, grazie per essere stato con noi. Vedremo, oggi la Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera aprirà questo faldone con le 300 pagine a corollario dell'ipotesi d'accusa e poi leggeremo, ovviamente. Allora, noi ci fermiamo per pubblicità e meteo e poi parliamo della volontà di molti comuni, province di cambiare regione, no? Ogni giorno ne spunta uno, comuni che vogliono passare da una regione all'altra. Che ne pensate? Capite queste richieste? Dovete votare su radio24.it il sondaggio, 800 24 0024, se volete intervenire in diretta tra poco. 24 mattino. 8:34 minuti, eccoci qua. Allora, sono sempre di più i comuni che vogliono passare da una regione all'altra, le province che vogliono passare da una regione all'altra, alcune zone dell'Italia che vogliono diventare più autonome, vuole avere più autonomia fiscale ma anche territoriale. E allora noi vi chiediamo: capite le istanze di queste richieste? Appena ho detto il tema del sondaggio, uno all'SMS mi ha scritto: sì, lo capisco, Unida, e c'è questo movimento per la Ladinia Unida, c'è anche questo in Italia, è il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Se volete 800 24 00 24, qualcuno gli ha contati, sono oltre 500 le comunità locali che hanno manifestato l'intenzione di trasferirsi di regione o rivendicare maggiore autonomia. Noi abbiamo intanto chiamato un paio di esponenti di movimenti che si battono per questo. Beh, uno più che un movimento è il presidente della provincia di Belluno della Lega, Gianpaolo Bottacin. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Presidente della provincia di Belluno, la provincia di Belluno che si è un po' stancata di stare in Veneto, mi pare di aver capito così. Stancata è il termine giusto, presidente? Ma in realtà non è proprio così, in realtà la provincia di Belluno, o meglio i suoi cittadini, perché hanno chiesto l'indizione di un referendum, si sono stancati di vivere in una regione a statuto ordinario e confinare con due realtà a statuto speciale, con una maggiore autonomia e maggiori risorse. Quindi certo. Questo è un po' in sostanza, per cui hanno scelto la strada più breve, consentita dalla Costituzione, hanno detto beh, se non ci danno autonomia, noi ci trasferiamo in Trentino Alto Adige, così abbiamo lo stesso grado di autonomia che hanno loro. Hai capito, ci trasferiamo in Trentino Alto Adige. Dall'altra parte, nel tacco dell'Italia, voglio salutare Paolo Pagliaro, buongiorno. Buongiorno. Paolo Pagliaro, editore di Telerama, ma anche leader del movimento Salento Regione. Lei si definisce non un secessionista, ma un autonomista. Che differenza c'è? Cioè, intanto vogliamo volete creare il Salento come regione, non più in Puglia, il Salento. Sì, certo, noi abbiamo la voglia di essere una regione autonoma perché ci sono tutte le condizioni per esserlo. Noi non siamo secessionisti, non c'entriamo nulla con chi ha voglia di secedere, non crediamo che altri territori di questo paese siano una zavorra. Cantiamo l'inno nazionale con la mano sul petto, crediamo nel tricolore e Roma è la nostra capitale, per cui non confondiamo perché si è fatta troppa volte la speculazione su questo. Noi crediamo che la regione Salento sia una grande opportunità per questo territorio, intanto perché nella storia la Puglia non esiste, esistono le Puglie, è stata una scelta burocratica già dal 1946 nella fase costituente, la regione Salento era lì e sarà lì in commissione per 11 mesi, come c'è stato il Molise e c'è stata la Romagna. Al Molise gli hanno consentito successivamente, anche in deroga alla Costituzione, di poter formare una regione autonoma. Il Salento e la Romagna ancora sono lì a rivendicare. Nel nostro caso specifico, una nuova regione al di là degli aspetti identitari, culturali, antropologici che esistono e sono molto forti. Lei faccia è a Milano ora? Sì, sì, noi siamo a Milano. Senta un po' i suoi amici, sicuramente ne avrà tanti che sono pugliesi e salentini. Prova a chiedere a un abitante della provincia di Lecce, per esempio, anche di Taranto. Ma lei è un pugliese, vedrà che gli risponderà no. Sono un salentino. Ma guardi, perfetto. Ma siamo l'Italia dei mille campanili, Pagliaro. Io sono di Sesto San Giovanni e siamo attaccati a Monza, ma non dica a un sestese di essere che è un monzese o a un monzese che è un sostese. Ma ci sono tutti, ma attenzione, e questo io giusto per sottolineare un aspetto che per noi comunque è importante, che è quello identitario, ma in questo caso specifico questo è assolutamente secondario. Noi crediamo che una nuova regione voglia dire risorse, voglia dire prossimità amministrativa, sì, efficienza, risparmi. Sì, oh, è proprio questo. Efficienza e risparmi, no, perché lei ha toccato due punti interessanti sui quali voglio salutare anche Giuseppe Bortolussi, che vi ha ascoltato con molta attenzione. Bortolussi, buongiorno. Buongiorno a voi. Il segretario della CGA di Mestre, sempre abituata a avere a che fare coi numeri. Allora, Bortolussi, qui abbiamo il presidente della provincia di Belluno e Paolo Pagliaro, il leader del movimento Salento Regione. Bortolussi, voi la CGA di Mestre avete fatto uno studio nel quale avete detto e avete messo alla luce dei numeri interessanti, ce li vuole dire? Guardi, intanto saluto sia il presidente della provincia di Belluno che l'amico, il giornalista Pagliaro. Guardi, i dati sono chiari, i dati sono inequivocabili. Vede, quando Belluno, perché certi italiani forse non hanno presente bene la situazione geografica, è un corridoio che dal centro del Veneto, la provincia di Belluno, montano, che è stretto tra Friuli, Venezia Giulia, regione a statuto speciale, e due province che sono autonome, quella di Trento e quella di Bolzano. E la situazione è questa, vede, le entrate tributarie, per esempio, no? Il Bolzano di entrate tributarie ha meno il 42,8 rispetto a Belluno e Trento meno il 43,5. Cosa c'entra? Vuol dire che di tasse ne pagano meno di Belluno, ma se va a vedere i trasferimenti correnti, sì. Bolzano ha più 182,7 rispetto a Belluno, sì. E Trento il 178,5. Poi se va a vedere le spese, per esempio, scopre anche qui che Bolzano è più 77,5 e Trento più 87,5. Cosa vuol dire queste spese in più? Vuol dire mense, vuol dire scuola bus, vuol dire strade. Per esempio, facendo un esempio, spese per lo sviluppo economico. A Belluno, che avrebbe voglia certamente di spendere molto di più, si spende 17 euro pro capite. Se ne spendono 107 a Trento e 143 a Bolzano, cioè più insomma, 730 a Bolzano più 519. Cioè lei dice avere un vicino così fa un pochino, come dire, ecco, mi verrebbe la concorrenza sleale, no, mi verrebbe la parola esplicita di chi sta a Belluno, cioè è un po' incazzato, ecco, giusto per usare la parola giusta, Bortolussi, rispetto a chi ha queste spese a fianco molto molto. Ma certo, ma poi vede, c'è anche la rabbia perché è concorrenza sleale. Quando tu vedi che quello che abita a 3 chilometri solo perché è di là dal confine può rinnovare l'albergo perché hai i finanziamenti e tu fai fatica a tirare avanti, e capisci che le cose così non possono andare avanti, anche perché la montagna è dura per tutti, è montagna lì, e su questo bisognerebbe riflettere. E invece, invece di Pagliaro che dice, cioè questa volta, per esempio c'è anche la voglia di Salerno, io sono nato in un comune, non ci abito più, secessionista, che si chiama Gruaro, che ha fatto anche lui il referendum e l'avrebbero vinto in teoria perché sono proprio ai confini col Friuli, e lì proprio la cultura, la parlata, è friulana, e è stato Napoleone a dividere male, diciamo noi, e ci sei sta voglia culturale, ma sotto sotto la verità è che tutti sappiamo, anche le piccole aziende, che in Friuli si sta meglio, che si hanno più contributi, più credito, questa è la ragione reale. Gli amici del Salento, io sono stato per ragioni di lavoro una quindicina di giorni, non di più, a Salerno, ed è effettivamente una realtà diversa dalla Campania, dal resto della Campania, bellissima zona, con gente che si dà molto da fare, perché anche qui l'Italia, sì è vero che è il paese dei 1000 campanili, ma anche dei 1000 distretti, diciamo, produttivi e anche culturali, sì, ed effettivamente... Una regione di 420.000 abitanti, mi scusi, sarebbe molto più grande della Val d'Aosta, che ne ha 127. Questo sì, questo per il Salerno, no? Ma invece in Salento, ma vedete, è interessante, no, questa cosa. Devo dire che tra l'altro il 60% dei nostri ascoltatori per il momento dice no, non capiamo le istanze di questa voglia di autonomismo, di voglia di secessionismo. Qualcuno dice, non so, Bottacin, lei ha sentito snocciolare, il presidente della provincia di Belluno, ha sentito snocciolare i numeri, che francamente l'avranno fatta un po' sobbalzare, magari lei forse guardi, li conosceva già, ma sentirseli dire, li conosco già da tempo come tutti i miei concittadini. Lei ha usato un termine che ormai è di uso comune, sono incazzati neri, questa è la verità. Lei pensi che il residuo fiscale del territorio della provincia di Belluno, che è la differenza tra quello che viene pagato in tasse dalle nostre imprese, dai nostri cittadini, rispetto a quello che torna sul territorio, è circa 1 miliardo di euro ogni anno. Siamo 200.000 abitanti, vuol dire 5.000 euro ogni anno, ogni cittadino di Belluno che paga allo Stato centrale e non torna indietro. Questi sono i numeri, per cui è evidente che il cittadino non può più accettare questa situazione. Io dopo le informazioni sul traffico voglio tornare da Paolo Pagliaro, perché tra l'altro dal Salentino, non il pugliese, il Salentino Paolo Pagliaro, perché? Perché c'è una vicenda che è uscita anche su tutti i giornali. No, intanto le faccio questa domanda, poi dopo il traffico approfondiamo. Continuate a mandare l'Inno d'Italia sulla vostra radio. Che radio è quella di cui editore lei, Pagliaro? Io sono editore di Telerama, Telerama 1, sì. Poi c'è tutto il... Ma c'è anche una radio, no? Poi ci sono 5 radio, tra cui c'è Radio Rama, Radio Nice, Salento, ma basta. E continuate a mandare radio, l'inno d'Italia, lo mandate ancora? Regolarmente in onda, sarà così per sempre oramai. Per sempre. Alle 16.58 ogni giorno andrà in onda l'inno nazionale. Ma guardi, anche le trasmissioni di Radio 24 iniziano alle ore 6 con l'inno nazionale italiano e l'inno alla gioia europeo, ma dopo il traffico ci spiegherà perché la vicenda è uscita sui giornali. Io dico solo questo, magari interesserà anche a Bottacinchi e della Lega. Radio Padania del nostro amico direttore Matteo Salvini trasmette da un po' di tempo anche in Salento. Com'è possibile? Lo spiegheremo tra poco. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Allora, tutti questi comuni che vogliono spostarsi di regione, per esempio San Michele al Tagliamento, Cintocao Maggiore, Gruaro, come ci ha detto Bortolussi, Pramaggiore, Teglio, vogliono andare dal Veneto al Friuli, o la Val Vestino dalla Lombardia al Trentino. L'Alta Val Marecchia in realtà credo ci sia già riuscita, dalle Marche passate in Emilia Romagna. Noasca vuole andare dal Piemonte alla Val d'Aosta. Leonessa Meduna dal Lazio all'Umbria. Savignano Irpino dalla Campania alla Puglia. Insomma, un po' di travasi, di trasferimenti così. Sentiamo Mario da Udine che ci ha chiamato 800 24 00 24. Mario, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto premetto che sono un romano che vive in Friuli, quindi il campanilismo per me è ben lontano. Vado in ferie, per mia fortuna, sulle Dolomiti da sempre, da quando sono nato, prima con i genitori, poi da adulto, e sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda Belluno. Sì. Belluno è un'ottima realtà, gente, grandi lavoratori che hanno ottime opportunità, perché quello scenario dolomitico è unico al mondo. E posso usare un termine, si fanno un mazzo tanto per stare dietro ai loro vicini trentini, che invece hanno molte più opportunità. Quindi fanno bene, però in questo modo, cioè, l'accusa è si sposta di ogni tanto un confine, ci sarà sempre un comune, una provincia prossima che chiederà a quel punto di diventare trentino, fino ad arrivare al paradosso che tutta l'Italia diventa trentino, no? Che ne pensa? Si parla di un territorio, Dolomiti, che sono in parte Trentino Alto Adige, in parte Belluno e in parte Udine. Belluno è l'unico che non è uno statuto speciale, a destra e a sinistra c'è lo statuto speciale. Quindi insomma hanno le loro ragioni. Con i Veneti non c'entrano nulla, sono un'altra storia. No, dice hanno ragione a essere un po' arrabbiati. Grazie Mario. Allora io voglio tornare da Paolo Pagliaro. Che succede da qualche giorno, da quanto tempo in realtà, Pagliaro? Le note di Radio Padania? Prima di passare a Radio Padania, io vorrei fare un po' di chiarezza, perché purtroppo si fa troppa confusione. Poi, oltretutto, ci arrivano i commenti folcloristici e alla fine. Qui dobbiamo partire da un presupposto. Questo nostro paese ha bisogno di riforme e su questo penso che siamo tutti d'accordo. La prima riforma che saremo costretti, tra virgolette, ad affrontare è quella del federalismo. Ma ci siamo? E allora dobbiamo tener conto che il federalismo si può fare se si mette mano prima di tutto agli enti di riferimento, che saranno le regioni, che sono state costituite in un periodo di boom economico, che oggi rappresentano centri di sprechi pazzeschi. E quindi, e che facciamo, Pagliaro? E ne facciamo un'altra, visto che sono sprechi pazzeschi? No, intanto ne facciamo un'altra per risparmiare sensibilmente, prima di ogni cosa. Ma poi entriamo nello specifico della regione Salento. Intanto mettiamo mano a questi enti che sono stati costituiti grazie alla spartizione dei partiti e oggi sono dei veri e propri colabrodi della spesa pubblica, per cui non ci deve scandalizzare l'idea che siano cambiati in questi 50 anni tanti aspetti. Un concetto principale che era alla base dell'istituzione delle nuove regioni e delle regioni degli anni 70 era il concetto di vitalità economica. Le cose sono cambiate e allora, parallelamente alla legge federale, penso che sarà necessario mettere mano a secondare tutta una serie di situazioni che si sono vedute create nel nostro paese. Specificatamente la regione Salento, giusto per capirci, non sarebbe per nulla piccola, parliamo di 1.800.000 abitanti, sarebbe l'undicesima regione d'Italia. No, ma non c'è dubbio, però capisce che si dice eliminiamo le province, Pagliaro, invece ne creiamo di nuove, eliminiamo le regioni, ora eliminiamo le regioni a statuto speciale e invece se ne vuole creare di nuove. Però su questo lei, insomma, giustamente porta avanti la sua battaglia. Io però vorrei andare sulla questione di Radio Padania, no? Perché ce la deve spiegare questa. Cioè su Radio Nice, una delle radio di cui lei è editore, che cosa si è inserita su quelle frequenze? Radio Padania. Collabora per Radio 24, sì, vero? E lavora a Radio 24. Provi a chiedere al suo editore quando deve acquistare una frequenza, quando deve allargare il suo raggio d'azione, che cosa fa, che cosa ha fatto negli anni. Ha acquistato una frequenza, sì, però bene, a Radio Padania e solo a Radio Padania è consentito un privilegio che sa un po' di sopruso, è solo questo il senso. Gli è consentito, in virtù di una legge del 2001, articolo 74, la possibilità di poter accendere frequenze dove perché vuole, è una radio che tutela degli interessi di una comunità. Credo anche Radio Maria sia così. Pagliari. Guardi, questo lo dice la legge. Pietoso, ma certo, la conosco bene quella legge. Immagino. Vabbè, insomma, si sono che tutelano le comunità, ce ne sarebbero tantissime. Questa è una legge, come dire. Persona, ma non possiamo. Vabbè, comunque si sono inseriti sulla sua frequenza, cioè uno accende Radio Nice e in alcune zone del Salento sente Radio Padania, questo è il dato di fatto. Radio Padania. Non sente più Radio Nice e sente Radio Padania. E quindi voi state portando avanti questa battaglia legale. Ripeto, è inaccettabile. Ma la cosa, visto che lei è amico dell'onorevole Salvini, è ogni tanto il nostro ospite, sì. Ci ascolta sempre, quindi magari gli dica qualcosa. Magari allora. Io ho provato anche ad avere un confronto sereno, noi siamo liberali, per capirci, non ci scandalizziamo di nulla e siamo convinti che tutti abbiano il diritto sacrosanto di esprimere il loro punto di vista, per cui Radio Padania deve esistere, che sia chiaro, ed ha il diritto di dire quello che crede. È chiaro, mi sia consentito, che non si deve trasformare in una cloaca di insulti contro i meridionali, contro gli immigrati, gli omosessuali, i rom. Questo non è consentito da nessuno, ma al di là di questo aspetto più politico, le dica, onorevole Salvini, gentilmente, visto che il Ministero gli ha già comunicato questa frequenza è nostra ed è occupata, serve un atto di serena convivenza e non uno schiaffo in pieno volto, frutto di un'arroganza che per noi è inaccettabile. Va bene, ma guardi, Salvini spesso all'ascolto glielo probabilmente gli arriverà la voce. Intanto Bortolussi, le chiedo, il nostro Paolo Pagliaro dice: fare una nuova regione può portare a risparmi. L'idea, così, a me può sembrare un po' balzana, ma dati alla mano, Bortolussi, fare una nuova regione può Io le dico una cosa, io sono contrario a tutto questo proliferare, in molti casi si tratta di provocazioni, penso anche a Belluno, per scuotere l'albero, per far sì che si decida qualcosa. In effetti tutta questa situazione è determinata più da ragioni economiche che da ragioni ideali o da ragioni storiche e culturali, e sono dovute queste situazioni al ritardo dell'attuazione del federalismo. Se ci fosse il federalismo ci sarebbero ugualmente problemi, non risolverebbero tutto, ma il federalismo ha dimostrato una cosa. Guardi, se lei confronta la realtà di stati federali e di stati unitari, scopre una cosa: Germania, Belgio, Spagna, eccetera, hanno un livello di spesa pubblica per far funzionare, cioè la macchina burocratica, che è la metà degli stati unitari. Quindi in un primo momento potrebbe esserci anche un aumento di spesa, ed è la paura che hanno tutti nell'attuazione del federalismo, ma i dati storici dimostrano, quindi non occorre fare esperimenti, l'esperimento è già stato fatto, gli stati federali costano per la burocrazia la metà esattamente degli stati unitari. Quindi fare una regione nuova, se risponde a certi criteri, può essere negativo, ma se si tiene conto di questi aspetti può essere anche positivo, anche economicamente. E allora, intanto, mentre ci fanno sapere che anche a Sulmona, in provincia dell'Aquila, si ascolta Radio Padania, che anche in Sardegna si ascolta perfettamente Radio Padania, come lo dico a Paolo Pagliaro, insomma, che forse non siete nella situazione simile, intanto io mi devo fermare e vi ringrazio. Che ne so, se Matteo Salvini ci sta all'ascolto, magari riusciremo a organizzare questo confronto con Paolo Pagliaro. E allora, Paolo Pagliaro, grazie, così come Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre, Giampaolo Bottacini, il presidente della provincia di Belluno della Lega, per essere stati con noi. Che dire, oggi ringrazio Alessandro Longoni, che è stato sbrandato perché è venuto qui in redazione, con Peter Bescapè in regia. Do la linea, come di consueto, a Oscar Giannino, e noi ci troviamo domattina alle 7:20.